su questa vecchia enciclopedia scolastica, che ora vado a recuperare la data, ma deve essere intorno al 1940-41, ho reperito alcuni scritti molto interessanti dal fronte, cose che oggi i giovani ragazzi, non, secondo me, non si immaginano neanche, che purtroppo, ahimè, sono fatti proprio accaduti. Non trovo la data, eccola qua forse. Aurora, antologia italiana per le scuole medie e inferiori, anno, vediamo un po', la sto proprio guardando sul momento. Comunque qua siamo negli anni 40, probabilmente 42 o 43. È possibile che non trovo la data, mi piaceva. Vabbè, qua siamo intorno agli anni 40, ecco. E questa enciclopedia scolastica, che è divisa per argomenti, ovviamente argomenti avvaliati prima dal regime fascista di Benito Mussolini, infatti ci sono anche degli scritti di Mussolini, abbiamo argomenti che trattano della guerra, dell'amore, della pace, della religione e insomma di tutto di più, principalmente autori italiani, anche futuristi e internazionali, però rigorosamente soggetti alla censura dell'epoca. Ecco, ho trovato due o tre scritti dal fronte molto toccanti che vi vorrei leggere. Praticamente sono lettere di condannati a morte, scusate, che scrivevano a casa, testamenti di guerra, di Nazario Sauro. Cara Nina, non posso che chiederti perdono di averti lasciato con i nostri 5 figli ancora col latte sulle labbra. So quanto dovrai lottare e patire per portarli a conservare sulla buona strada che li farà procedere su quella del loro padre, ma non mi resta altro dire, altro che io muoio contento di aver fatto il mio dovere di italiano. Siate pure felici, che la mia felicità è soltanto questa, che gli italiani hanno saputo e voluto fare il loro dovere. Cara consorte, insegna ai nostri figli che il padre loro fu prima italiano, poi padre e poi cittadino. Tuo Nazario. E poi abbiamo questo scritto di Cesare Battisti. Caro fratello, mi hanno condannato a morte, la sentenza sarà subito eseguita. Ti mando un saluto che non posso indirizzare alla mia famiglia. Portalo tu, quando potrai, alla mia Ernestina, che fu per me una santa, e ai miei dolcissimi figli, Gigino, Lisetta, Camillo, al nonno, alle zie, allo zio, alle mie sorelle, alla loro famiglia. Io vado incontro alla mia sorte con un animo sereno e tranquillo. Ai miei figli, siate buoni, vogliate bene la mamma, consolate il suo dolore. Cesare. Poi abbiamo sempre un'altra lettera molto toccante di Damiano Chiesa. Papà, mamma, Peppino, Giole e Emma carissimi, negli ultimi momenti di una mia vita, confortato dalla fede, dalla santa comunione, dalle belle parole del curato di campo, mando a tutti i miei cari i saluti più cari, l'assicurazione che nell'altra vita io non sono morto, ma che sempre vivo in eterno, che sempre pregherò per voi tutti. Devo ringraziarvi di tutto quanto avete fatto per me e domando il vostro perdono, sempre vostro affezionatissimo figlio Damiano. Vediamo se ne trovo qualcun'altra. Questa è molto toccante. Giosuè Borsi. Non piangere, mamma. Se è scritto lassù che io debba morire, non piangere, perché tu piangeresti sulla mia felicità io non debbo essere pianto, ma invidiato. Anche se non ti basta la compiacenza di aver offerta la nostra adorata patria Italia, questa terra gloriosa e prediletta da Dio, il santo sacrificio della vita di uno dei tuoi figli, pensa in ogni modo che non devi ribellarti neppure per un istante ai decreti divinamente sapienti e divinamente amorosi del nostro Signore. Se egli voleva serbarmi ad un altro, poteva farmi sopravvivere, ma mi ha chiamato a sé. È segno che quello era il migliore dei partiti e il maggior bene per me. Egli sa quello che fa, a noi non resta che inchinarsi e adorare, accettando con giubilo fiducioso la sua altissima volontà. Queste sono alcune lettere recuperate molto probabilmente da soldati italiani al fronte, sono molto toccanti e nel loro ultimo saluto rimane sempre una certa compostezza e serenità che oggi, a mio avviso, è difficile immaginare. Grazie a tutti, siete sempre all'ascolto di Radio Oltrepò by Night, questo è lo spazio dei poeti estinti della notte, dove leggiamo degli spaccati di racconti, poesie, proprio nel profondo della notte, mentre le luci delle città, dei grattacieli, dei palazzi si spengono e la notte vi cattura e vi prende per mano. Lo facciamo anche noi qua in radio. Buona nottata a tutti, dolce notte e buon proseguimento d'ascolto.